Sarebbe una cosa insopportabile per me non sapere come stanno le cose a casa e a chi pensare quando sarò nel pericolo. Mi sembra impossibile di dover parlare di pericolo di morte, ma sai bene quanto brutta sia la guerriglia, specialmente quando si deve fare con gente esasperata e della razza degli Indocina. Gente mezza selvaggia e ben armata. È già molto, sai, pensare di essere pensato per uno che è nelle mie condizioni, ed è per me insopportabile non sapere a cosa pensare. Aveva ragione Idania quando diceva che per uno che se ne va dall'Italia proverebbe una forte nostalgia sia della patria come della famiglia e degli amici. 15 giorni sono passati dal giorno che sono uscito dall'Italia e mi sembrano 15 anni. Mi piaceva viaggiare ed ora mi viene male al pensiero di dover andare in Indocina, di fare 30 giorni di nave. Per ora non rispondermi perché qui sono provvisorio. Ti spedirò ancora una mia lettera con l'indirizzo sicuro. Ti prego, babbo, di rispondermi perché sono ansiosissimo di sapere come siete a casa. Saluti, Tony. Per tanti anni è stato un po', forse una parola grossa, un po' la vergogna della famiglia, no? La sentivamo come qualcosa, cioè sto figlio che scappa da casa, siamo negli anni 50 e insomma una cosa abbastanza grossa, per cui è rimasta come chiusa in noi, in famiglia. Molto più tardi è venuto fuori un discorso che tutto sommato sarebbe bene, avrebbe aiutato dei giovani, cioè sarebbe stato utile che venisse saputa e conosciuta questa storia qua. Io un po' l'ho sempre sostenuto da una certa età in poi. Dopo, un po' alla volta, io ero riuscito a, non dico convincere, ma ripensare all'Idania questo mio modo di pensare, anche se lei era d'accordissimo che la cosa doveva rimanere in famiglia. Però un po' alla volta cominciavo a entrare dentro anche questo mio ragionamento, probabilmente può essere utile a qualche giovane sentire questa storia così drammatica. Dopo io so che a un certo punto qualcuno dei nostri conoscenti ci ha parlato di questo pieve Santo Stefano. Non voglio pigliarmi nessun tipo di merito, però è stato la mia insistenza con l'Idania che dopo si è convinta e, contrariamente al parere di altri fratelli, ha mandato le lettere. Hai capito? Sì, hai ragione, è giusto che venga fatto sta roba del genere. Comunque ci sono ancora una parte della famiglia che non è d'accordo. No, adesso no. E sono tutti felicissimi che sia avvenuto questo. Caro papà, ecco, come promesso, l'indirizzo del luogo dove dovrò fare l'istruzione e dove potrò avere una risposta alla mia ultima lettera. Ne ho scritto, se non erro, ormai 4 con questa. Legionario Cocco Tony, matricola 91936, Saida, Algerie, Nord Africa. Deposito comune della Legione Straniera, terza compagnia. Come vedi, sono arrivato a Saida. Ci avviciniamo sempre più verso il centro dell'Africa e perciò ti puoi immaginare il clima. Ti garantisco che per me è quasi insopportabile. Fa un caldo d'inferno, specialmente quando tira il Ghibli. Proprio pochi giorni fa è venuto, rimasi in piedi per miracolo. Mi sembrava sempre di svenire con quell'aria caldissima che sferzava il viso. Ora dobbiamo fare l'istruzione, il periodo, così dicono, più duro di tutto il tempo che si dovrà rimanere nella legione, figurati che cosa dovrà essere. Alla mattina ci fanno alzare alle 3 o alle 2 e bada che non sono balle, ma sacrosanta verità. Scusami la scrittura e il contenuto, ma ho mal di ventre e di testa. Oggi abbiamo fatto 6 o 7 ore di camion per arrivare a Saida e sempre sotto il sole. Sperando con tutto il cuore che tu mi risponda, saluto te e mamma e il resto. Se tu non vuoi rispondere, almeno che lo faccia Ciccio. Mi farebbe proprio bene, perché anche se bisticciavo spesso con lui, è il fratello a cui voglio più bene di tutti. Tony. E poi, Giovanni, voi gli rispondevate separatamente alle lettere? O si mettevano più lettere? Cioè, stavo pensando, se dopo se il papà raccoglieva le lettere di noi, le spediva dopo tutte quante assieme, probabilmente era così, ma certamente anche noi scrivevamo qualcosa sempre. Quando ho lavorato, sì, era un ragazzo amico di famiglia, insomma, ma dopo, sai, sono cose dei miei fratelli, io sì, l'ho conosciuto, ma no, no, no.

La storia di Antonio Cocco la potete ascoltare online sul sito di Radio 24, alla nostra pagina Linee d'Ombra. Trovate proprio dei blocchetti in cui comprendono le 5 puntate, le 5 mini episodi che vi raccontiamo all'interno di ogni settimana di Linee d'Ombra. Altrimenti ci sentite tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15. Linee d'Ombra raccontano storie di confine, le vostre e quelle che troviamo in giro per il mondo. Tutte storie che hanno nel mezzo una traccia, hanno nel mezzo un percorso che in qualche modo ha cambiato la vita di chi le ha vissute. Fate una buona domenica, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.